X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Nel terzo anniversario della rivoluzione, le donne tunisine hanno oggi conquistato un'altra vittoria. La costituente tunisina ha approvato un articolo che introduce il principio della parità tra uomo e donna nelle assemblee elette e non impone la sharia. Svolta storica in Tunisia. La Costituzione sancisce la parità di diritti fra uomini e donne. Finite le operazioni di voto durate 2 giorni, urne chiuse, il referendum, che ha visto una massiccia affluenza ai seggi, è un copione già scritto. Si profila la vittoria schiacciante dei sì alla nuova Costituzione. Il generale al-Sisi ha invitato i 53 milioni di egiziani ad andare in massa alle urne per votare sì. Primo referendum costituzionale dopo la deposizione del presidente Morsi. Scontri questo pomeriggio fra i sostenitori dei Fratelli Musulmani e le forze dell'ordine. Vittime ci sono state Bani Suef a sud del Cairo, a Soag nell'Alto Egitto e ancora Giza. Credo che la nuova Costituzione sia un passo avanti rispetto a prima e spero proprio che vinca il sì. La candidatura del generale al-Sisi alle elezioni presidenziali che dovrebbero svolgersi entro l'estate è data quasi per certa. Tarak Ben Ammar, imprenditore musulmano, tunisino, amico dell'Italia, imprenditore nel settore televisivo e cinematografico. Ha raccontato con le sue televisioni molto seguite in Tunisia, in Libia, in Egitto, le ultime vicende politiche che hanno riguardato soprattutto, appunto, come abbiamo sentito, Tunisia e Egitto. Ecco, la nuova Costituzione tunisina l'abbiamo sentita, innovativa su 2 punti, il ruolo parità di diritti tra le donne e l'abolizione della sharia. Ecco, dottor Tara, cosa vuol dire abolire la sharia? Buongiorno intanto. Buongiorno, Radio 24 Giovanni. Non c'era mai la sharia, era una richiesta dei nostri fratelli musulmani che si chiamano Nahda. Noi non l'avevamo mai, hanno tentato, hanno visto immediatamente che la società civile, la Tunisia, la libertà della donna l'avevamo già. E allora cosa è stato? Quali sono le novità? Abbiamo aggiunto nella Costituzione una definizione talmente larga dell'uguaglianza tra uomo e donna che ormai è legge e non soltanto una legge più minore come era prima. E la seconda cosa è che l'apostasi è stata proibita, ma questo è fondamentale. Vuol dire che per definitivamente l'Islam politico, che era utilizzato da dei partiti per dire che Tarak Ben Ammar o Giovanni Minoli sono non credente o infidele in funzione delle loro posizioni di società civile, sono nella Costituzione una cosa fuori legge. E quindi è una rivoluzione. Nessun imam potrebbe dire, come hanno fatto contro la mia TV che prendeva delle posizioni coraggiose, che siamo dei non credenti, dei infideli. Vuol dire che i cristiani e gli ebrei, che era per la tradizione tunisina e anche egiziana, facendo parte della società, non possono più essere esclusi per ragioni religiose. Quindi una rivoluzione, sostanzialmente. Ecco, ma sarà più semplice dialogare con l'Europa così? Direi di sì, perché non ci sarà più il sospetto che l'Islam sia una religione politica anti-occidentale che non era mai stata. Dunque la manipolazione e l'utilizzo della religione non è più sul tavolo. Poi l'Europa dovrà avere rapporti normali. Naturalmente. Ecco, questa Costituzione dovrà essere confermata con le elezioni alla fine dell'anno? Allora, la Costituzione, una volta votata, deve è definitiva. Confermata, ovviamente. È definitiva. Ma poi ci saranno le elezioni in Egitto a giugno e credo anche in Tunisia o a giugno o a settembre. Adesso. Ecco, ma la carta egiziana, invece, passiamo all'Egitto, che è stata approvata ieri dal 90% dei votanti, hanno votato, mi sembra, intorno al 50% degli egiziani. Sì. Sancisce la libertà di culto e la possibilità di edificare chiese. Significherà che per l'Egitto la pace religiosa ci sarà oppure si accentueranno le tensioni con i fratelli musulmani? Allora, alla differenza della Tunisia, Giovanni, in Egitto il 12% della popolazione è copta cristiana. La pace religiosa c'è sempre stata. L'Egitto era prima cristiana, poi musulmana. Ricordiamoci, i fratelli musulmani egiziani, che non erano come i nostri, volevano completamente levare la libertà religiosa a questa minoranza. Questo è stato l'errore di Morsi, di vincere le elezioni e poi di fare un colpo di Stato lui costituzionalmente, levando i diritti alle minorità. E questo è noi per esempio non avevamo questo problema. Ecco, ma che cosa, signor Tarak, saranno adesso con questo nuovo assetto di nuovo gli Stati Uniti gli interlocutori privilegiati dell'area nordafricana, oppure l'influenza russa sta crescendo? Allora credo che nell'uno o nell'altro. L'America non ha visto arrivare la rivoluzione araba e, contrariamente a tutte le teorie, nessun servizio americano l'ha visto venire. L'Europa è l'interlocutore prioritario. Infatti, vorrei dirvi, l'Italia ha un ruolo fondamentale con queste nuove repubbliche. E di fatto l'Arabia Saudita e Abu Dhabi hanno detto all'America: levate le mani dall'Egitto, non è più affare vostro. Però in Europa, Putin obiettivamente è sempre di più un punto di riferimento, con l'America un po' più neo-isolazionista. Assolutamente, Putin avrà un ruolo fondamentale nel Medio Oriente. È ritornato Putin come era l'Unione Sovietica all'epoca della Guerra Fredda, in un modo di contare, e a noi ci interessa. Certo. Perché la Russia è un è paese molto. Con il quale energia, rapporti, e questo dà un equilibrio molto bene. Però l'Europa è Putin, non da solo Putin. Senta, l'Europa è fondamentale per l'Europa è Putin. Senta, ma è facile fare informazioni in questo momento? Lei se ne occupa molto, Tarachi, in questi paesi? Dipende dal paese, ovviamente. E non sempre, perché ci sono sempre dei estremisti che vogliono attaccare dei giornalisti per eccessi di libertà. A noi di costruire piano piano, anche da voi, no? La certo, libertà di stampa si guadagna tutti i giorni. Tutti i giorni. A noi di costruire. Senta, ecco, ma adesso, riparte l'asse con l'Arabia Saudita, fra l'Egitto e l'Arabia Saudita, per far ripartire e farà ripartire l'economia? È già ripartita. Ah. Abu Dhabi e Arabia Saudita, tutti e due, hanno già investito in Egitto 12 miliardi di dollari. Il fabbisogno dell'Egitto di quest'anno sono 30 miliardi di dollari che daranno all'Arabia Saudita. Sì. Senta, dunque, e quindi questi investimenti faranno diminuire anche l'immigrazione, signor Tarak? Allora, bravo, questa è la cosa. Uno potrebbe dire: ma noi italiani, europei, che se ne frega di cosa succede là, con i problemi che avete? La cosa fondamentale è: se questi paesi danno ricchezza, benessere e lavoro alla loro gioventù, che rappresenta il 65% della popolazione, non verranno in Europa. E a questo punto la ricchezza creata là, insomma, investiamo là. Certo. E infatti l'Europa vuole investire là per aiutare quei paesi a essere indipendenti, e a questo punto è vincente anche per l'Europa. Senta, un'ultimissima domanda, intanto la ringrazio, dottor Tarak. So che sta per entrare in consiglio di amministrazione a Telecom, o sbaglio? Sì, fra 7 minuti. Ecco, capita qualcosa che ci interessa, ci dà un'anteprima? Guarda, Telecom è passato dalla società con indebitata, fallisce, che non è vero, alla società che adesso sta costruendo un progetto industriale. I numeri di quest'anno sono abbastanza interessanti e soprattutto stiamo cambiando la governance. E chi comanderà? Chi sarà la nuova governance? Ci sarà sempre un amministratore delegato. Ah, ma quello lo immagino, volevo un nome. Sì. No, per adesso Patuano, allora, se posso dire. Sì. Marco Patuano si sta rivelando un amministratore delegato formidabile. Perfetto. Lo penso io e altri consiglieri. Vediamo sul lavoro come va. Va bene, grazie, buon lavoro. Grazie mille, dottor Tarakka. Grazie. Allora, la possibilità di edificare chiese in Egitto, parlo con te Pietrangelo, che è poi quello che accade in Italia, cioè la libertà di costruire moschee, secondo te è giusto oppure no? È stata una delle prime istituzioni del profeta, che fu, oltre che fondatore di una religione, capo spirituale, fu anche un capo politico, e la locuzione esatta la genti del libro, e una delle prime istituzioni fu quella di garantire la libertà di culto ai credenti, a chiunque avesse un riferimento nel libro. Ah. E quello quindi che invece viene spacciata come intolleranza musulmana nei confronti delle altre confessioni, si riferisce a un caso specifico, sì, che è quello del territorio saudita, che è considerato dai musulmani territorio sacro, ed è lo stesso principio attraverso il quale potremmo immaginare che all'interno... Una moschea a San Pietro. Una moschea a San Pietro. Invece ce l'abbiamo quello, un po' vicino a San Pietro. Il territorio saudita, la sabbia saudita, che poi gli stessi sauditi giochino sporco e sporchissimo giocano quando per esempio accolgono i cingolati degli eserciti americani e fanno calpestare la sabbia sacra. Sarebbe meglio una chiesa. Sarebbe meglio una chiesa, questo non c'è dubbio. Va bene. Quindi in Egitto il problema delle chiese non Ma c'è. Non c'è mai stato, non c'è mai stato, l'ha ricordato benissimo Tareq Ben Ammar, anche perché l'Egitto è una terra dove si incontrano storie millenarie antichissime, accanto a quella che è la presenza, la copresenza della cristianità e dell'Islam. Bisogna ricordare che l'Egitto è innanzitutto la storia millenaria di una civiltà che continua ad essere presente nella memoria del popolo. Mario, sì, ma abbiamo parlato Egitto tra Russia e America, no? Sì. È che la Russia è un dato, insomma Putin sta facendo una mi politica mi pare ineludibile, ecco, l'Egitto amico dell'Occidente di Mubarak è finito l'Egitto, diciamo, un po' etero diretto dagli americani, questo mi pare evidente, per ovvie ragioni politiche, dalla svolta di Morsi e poi alla sua caduta e adesso appunto al ritorno, diciamo, dei generali su altra forma con Al-Sisi. Dipende dai finanziatori. Che vincerà sicuramente l'elezione. È una storia Sei d'accordo, Pietrangelo? È una storia già scritta, perché comunque è una storia sporchissima. Quella dell'Egitto è una vicenda terribile, dove si dimostra come l'applicazione della democrazia non è una panacea, perché altrimenti avrebbero dovuto accettare il risultato. La democrazia funziona secondo la logica occidentale solo se risponde, se risponde ai loro interessi. Vabbè, però adesso diciamo obiettivamente è sempre questo il meccanismo. Ma appunto perché bisogna considerare bisognerebbe stabilire che almeno formula, un tot bisogna che la votino. Formula non è definitiva. No, ma poi non è neanche la panacea di tutto, lo sappiamo. La formula non è definitiva, non è la panacea le tecnocrazie ed è anche molto spesso controproducente. Solo per completare diciamo il percorso del dilemma Egitto, molto dipenderà da che cosa fanno e decidono i paesi donatori. Certo. Perché vorrei ricordare che c'è l'Arabia Saudita, il Kuwait, tutti i paesi degli Emirati. Parliamo di cifre che vanno oltre i 12 miliardi di dollari, quindi sono un sacco di soldi. L'Egitto ne ha bisogno perché esce da un periodo disastroso. E poi serve, come diceva Tareq, servirà anche a rallentare l'immigrazione. Infatti, parlando di immigrazione e parlando di fatti di casa nostra, passiamo a quello che sta per capitare tra pochissimo. Riccardo Nencini, segretario del PSI, oggi alle 11, se non sono mal informato, dovrebbe incontrare il presidente Letta. Buongiorno Nencini. Buongiorno, buongiorno a tutti, Gianni. Ecco, crede? Ci crede lei all'accordo tra Letta e Renzi? Oppure guerra? Sì. Ci guerra credo. O pace? Conosco entrambi e sono fiducioso. Perché ci crede? Perché dalle cronache, diciamo così, le ragioni del conflitto mi sembrano che crescano invece che diminuire. È una fase negoziale solo? Renzi però ha bisogno di dimostrare responsabilità verso il governo e verso l'Italia e lo farà. Incalzerà Letta, ma la responsabilità alla fine prevarrà. Quindi lei è ottimista? Sì. Ecco, ma per quale legge elettorale è la più probabile secondo lei? Perché oggi credo che qualcosa di più ne dovremmo sapere. Ci sono tre ipotesi sul campo e tutte e tre possono essere corrette. Io preferisco un sistema che restituisca agli italiani il diritto di scegliere i loro parlamentari. Ma come lo chiamiamo? Ma fra so le tre, fra abbia. Le tre, fra la le tre, quale le piace? La preferenza potrebbe essere una strada, oppure collegi molto piccoli dove il cittadino individua subito quali sono gli antagonisti, i concorrenti. Senta, ma il modello spagnolo elimina Alfano in qualche modo, che mi sembra che invece piaccia molto sia Renzi che Berlusconi. Non ho un'opinione diversa dalla sua. Elimina Alfano e mette in difficoltà i partiti piccoli, ma non so se alla fine, proprio per questi motivi, riuscirà a trovare una maggioranza all'interno delle aule parlamentari. Senta però due che hanno trattato molto nei giorni scorsi, Brunetta e Nardella, su questo punto. Senta cosa ci dicono. Ieri Brunetta ci ha detto questo, senta un po', l'accordo Renzi-Berlusconi secondo lei è vicino o no? Cioè questa è una settimana buona o no? Da parte vostra ci sono dei paletti oltre i quali sopra o sotto non si passa o no? Election day, un turno maggioritario bipolare. Può essere questa una linea d'accordo? I paletti sono gli stessi, quindi ci siamo, questi sono giorni decisivi, secondo me l'accordo appunto non è lontano. Ecco, le sembra che sia un punto vero, ci crede? Uso ancora il condizionale, sono abituato a guardare a Berlusconi soltanto alla fine del gioco, ricordo la bicamerale che presiedeva in un minuto, la bicamerale tutto bene, ma negli ultimi 5 minuti la partita e anche, nel voto alla fiducia l'ultima volta. Esattamente. Senta, lei conosce bene Renzi comunque, sì, l'ha sostenuto bene alle primarie per le elezioni di sindaco di Firenze. Primavera 2009. Perfetto. Lui, Berlusconi, lo incontrerà malgrado i Bersania, qualcuno nel partito dica non bisogna incontrare Berlusconi dopo averci fatto il governo? Le regole vanno scritte, le regole del gioco si scrivono assieme, e se l'opposizione è rappresentata anche da Berlusconi vedo difficile non interloquire con l'opposizione. Ma lei pensa che si possa spaccare il PD su questa cosa di incontrare o non incontrare Berlusconi? No, oggi, non direi. Ci sono cose più importanti sulle quali trovare gli accordi oppure spaccarsi. Senta, mi dice, me lo fa un ritratto di Renzi, visto che lo conosce bene, un po' inedito, visto che lo sentiamo raccontare poco come persona? Coraggioso, un po' fanè. Uomo di questo tempo. Bene. Difetti? Un po' fanè. Vabbè, ma in cosa si incarna questo fanè? Nell'essere molto spesso il primo della classe. Ora comincia a esserlo anche con qualche argomento. E questo è un fatto positivo. Mi sembra un fan. Bene, senta. No, rimango sempre un anarco-libertario. Anarco-libertario. e allora questo PSI con chi sta? Sta in questo tutti contro tutti. Dove sta lei? Io sto sempre nella sinistra riformista, è il luogo dove sono nato e penso ancora che la coerenza sia un fattore positivo. Senta, ma Alfano alza i toni anche lui, ha un po' paura, dice patti chiari ma amicizia breve, è un annuncio di crisi o solo volersi sedere al tavolo con pari dignità? Vuole sedersi al tavolo con pari dignità e in profondità vede lo spettro che si alza di Gianfranco Fini. Senta, ecco, c'è Secchi che le vuole fare una domanda. Buongiorno Nencini. Buongiorno. Senti, io sono della scuola Macaluso, e cioè votiamo col proporzionale e facciamo un bel voto costituente. Che ne pensi? Ho fatto questa proposta a giugno in Parlamento, unica voce. Eleggiamo una costituente. Con il proporzionale sono rimasto da solo. Pietrangelo. Ma non ho cambiato un'idea, perché quando si riscrivono le regole del gioco, come succede in Europa, il sistema migliore è esattamente quello di cui stiamo discutendo lei ed io ora. Perché altrimenti escludi qualcuno, questo è il concetto che, è insomma, su quale bisogna riflettere. Pietrangelo? Onorevole Nencini, una curiosità, diciamo, culturale, riguarda le radici culturali. Lei ha detto che Renzi è fanè e coraggioso, è moderno. Io colgo quindi la possibilità di farle venire fuori una provocazione. Siccome l'unico vero moderno, l'unico vero politico che ha acceso la politica delle riforme in Italia è stato Bettino Craxi, quanto di Craxi ci sarà in Matteo Renzi? Perché altrimenti, secondo me, se non c'è Craxi non è credibile. Craxi intanto era un uomo di partito e Renzi non lo è, erano due società diverse. Craxi era un uomo che decideva ma non era decisionista. Matteo Renzi è un uomo che decide, penso e spero, ma è soprattutto decisionista. Aspetti un attimo, 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Qui bisogna precisare ancora, perché ci scrivono la prima SMS e che ci chiede che vuol di fane. L'ho detto un po' alla romana, che vuol di fane? Io lei un po' l'ha spiegato, però insomma ancora una precisazione. Anche perché ho colto nell'onorevole Nencini una sfumatura molto simpatica quando si è presentato con una data ben precisa, primavera 2009. Mi è sembrato come quando si diceva una volta: io sono una sciarpa Littorio, antemarcia. No, non è così. Siccome mi è stato chiesto di, se c'è stato un sostegno alle primarie, ho risposto sì, sì, ci certo. furono nella primavera del 2009. Insomma, Stofanè non lo vogliamo specificare meglio? Letteralmente significa diciamo persona che si mostra che no, appare, letteralmente è sciupato e sfiorito. Fane. Bel complimento. Letteralmente, giusto. Non male. Nencini. Scherzo, prego. No, ma sai che diceva letteralmente Fane vuol dire sciupato. Sfiorito. Vabbè, no, ma no, sono no, come quelle parole che possono cambiare. Va bene. Senta, un'ultimissima domanda. Prego. Un'ultimissima domanda. Per il PSI, domanda provocatoria, è possibile che in realtà invece salti il banco e si vada subito a un governo Renzi? C'è una questa possibilità o no? Non la vedo. Assolutamente. No, penso che l'interesse stesso di Renzi sia passare da un turno elettorale nel quale trovare legittimità. E quindi deve fare gli accordi per forza con Letta. E quindi deve costruire la ragione per arrivare ad una campagna elettorale, diciamo dentro la competizione, ma una campagna elettorale che lo benedica. Quindi sì, ma detto che si capisca, niente rimpasto, però se Letta vuol cambiare il governo faccia lui. Questa è la posizione di Renzi, mi pare. Sì, più o meno è questa. Però non c'è dubbio che Letta debba ridefinire le priorità, può o non può cambiare i ministri. Però cito l'esempio della Germania. In Germania hanno obbligato i grandi partiti a mettere nel governo i loro massimi rappresentanti. E la Germania vive una stagione che non è di crisi come l'Italia. Certo, anzi. In momenti come questi serve la politica, non serve la tecnica, esatto. Abbandonata dalla politica. Se si vuole qualcosa di solido. E quindi anche i ministeri importanti forse ci vogliono politici, non questa tecnici. Questa è la mia opinione, sì. Vale per Tesoro, per tutto. Soprattutto per l'economia. Per l'economia. Quindi Saccomanni, secondo lei, è meglio. Ma dico che noi abbiamo saccheggiato nel tempo la Banca d'Italia. Dini, Ciampi, non sempre però, dice un grande storico che è Cipolla, non sempre nello stesso luogo troviamo persone che possono soddisfare i nostri desideri. Vabbè, quindi Saccomanni, troppi errori. Qualche errore. Va bene. Soprattutto una lettura burocratica e non serve. Grazie. Mix 24. 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666. Il nostro DJ oggi cosa ci ha preparato? Permettete, signorina, vi del braccio, ma voi datemi del tu. Ogni passo ci avvicina, ogni passo mi innamoro sempre più. Permettete, signorina, è un Nicola Arigliano. È una voce del passato che però ha una freschezza, un ritmo, un'allegria che è perfetto per accompagnare questa metà giornata e per aiutarci ad una vera mescolanza, quella di mettere insieme la leggerezza e poi la sostanza delle cose. Tant'è vero che mi sono ingarbugliato quando ho visto questa intervista interessante di Massimo Ranieri che snobba Sanremo e si affida a Chekhov. No, vorrei dire che tu sei ingarbugliato dalla nascita, ma comunque va bene. Ma tu lo sai che lui era tanto noi ci siamo ingarbugliati insieme. Fu un attore di Streller al piccolo. È vero. Ma prima sentivo Nencini e mi ricordavo di quella stagione di Socialisti dove appunto quello che sembrava meno intelligente era Streller. Figurati adesso. Figurati gli altri. Allora, Mario, che cosa bolle in pentola? Bollicine. Io sono costretto ancora una volta, per il piacere di Pietrangelo, per i commenti acuti di minori, a parlare di normale. C'è lui, è sempre lui, il nostro amico François Hollande, presidentissimo, il quale resta stabile nell'impopolarità. Ma io non ci credo. Perché è pazzesco. Ma tu hai visto così la foto di lei? È il minimo storico per un presidente della Repubblica Francese nella storia della Repubblica Francese. Sono diventati moralisti? Solo, senti, solo il 17% dei francesi dà un giudizio positivo sulla sua azione. Ragazzi, cioè, poi noi possiamo discutere quanto vogliamo, ma questi sono numeri terrificanti per chi poi deve fare l'arte di governo, e il presidente francese deve governare, ricordo, nel loro sistema. Quindi... Ah, quindi non per la ragazza? No. Qua è politica, la ragazza sì, ha influito, ma non come... No. I francesi sono un po' diversi da noi, anche se anche lì si è rotta la diga, cioè ciò che era stato risparmiato a Mitterrand e a Chirac non è stato risparmiato a Hollande. Quindi, insomma, è molto interessante quello che accade. Ops! Oh, Salamini! Salamini! Salamini! Prima di procedere per i salamini, chiederei alla regia di aiutarmi con un brano. Arriva! Cara! Ecco. Temo di farmi sentire da te, ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce da rock. Mi faccio sei uova la coq. Sei uova la coq. Sì, è un amore sussurrato in sordina da 5 mesi. Sembra essere questo, una dichiarazione d'amore sussurrata in sordina da 5 mesi tra due protagonisti della politica italiana, anzi tra il protagonista assoluto che è Matteo Renzi, senza è il protagonista che se n'era andato e che invece è ritornato, cioè, baci, cioè Silvio baciando. Berlusconi. Quindi quest'amore in sordina sta per esplodere e Matteo Renzi tenta una carta traumatica, scioccante, ovvero quello di accogliere al Largo del Nazareno, cioè nella sede nazionale del Partito Democratico, il padrone dell'opposizione. Questo non è mica sicuro così. Non è mica sicuro perché all'interno del Partito Democratico subito si è levato un lapsus più che un grido, cioè il pregiudicato nella sede del Partito Democratico non può entrare. A parte il fatto che bisogna fare attenzione con tutti questi pregiudicati, perché poi finisce Fossato, come... Coccodrillo e Ponte Levatoio. Però, non dirmelo. Insomma, si incontreranno e faranno la legge elettorale, speriamo. Però, come diceva Nencini, che ormai è diventato il mio faro, memento bicamerale, gli ultimi 5 minuti Berlusconi sfascia tutto. Senti, Mario, e secondo me si compra pure la sede del Largo del Nazareno. Se gli piace, dipende. E gli viene vicino con la sede di Gianni Letta, che c'è l'appartamento di Palazzo Chigi, lo fece rifare tutto perché non gli Mario, piaceva. Mario, c'è un sms per te di Stefania Costa che dice proporzionale, senza sbarramento. Secchi, può spiegare? Beh, dipende, su questo ci si può anche mettere d'accordo, come suol dirsi, però l'idea che in me sta maturando in queste settimane, poi può darsi che io sbaglio ovviamente, è che siccome noi ci avviamo a una specie di reload, di ricaricamento di tutta la politica e di riscrittura delle regole, se tu fai una legge fortemente maggioritaria, ma escludi un sacco di gente che insomma non è molto democratico. Stiamo mettendo il dito nell'occhio. Secca, l'inglese, col doppio turno, la francese, Cese. E il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese, e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana, Io prima o poi vi frego, faccio fare un audio a Mirello Crisafulli dove dice che tra proporzionale e maggioritario lui se ne frega perché vince anche al sorteggio. Bene, Sara, occupatene per favore. Allora. No, volevo dirti che abbiamo messo un dito negli occhi ai toscani, perché dice Leo, padre senese, madre fiorentina, dice: ma se diceva Gigione non se la cavava meglio invece che Fanè? Anche perché Fanè, ripeto, vuol dire sciupato, quindi bisogna stare attenti. È come la declinazione di altre parole. Siccome la questione della legge elettorale, sulla quale noi scherziamo, ma in realtà per parlarne seriamente, Io invito a leggere oggi sul Foglio, c'è un articolo molto intelligente, mi pare, di Salvatore Merlo, ancor più penetranti sono le cose che dice Macaluso sulla questione del proporzionale, su una fase costituente, su una riscrittura delle regole e così via. Viene da un vecchio uomo di partito, da un saggio, che ha militato in un grande partito, grande, che è stato il PC, e secondo me va a letto con molta attenzione, anche perché se tu guardi attentamente le dispute di questi giorni, di queste ore, si capisce che con un sistema maggioritario rischiano di escludere una grande forza politica. Non si sa quale sarà, può essere Grillo, sì, può essere lo stesso PD, può essere in qualche maniera Forza Italia, certo, eccetera. In sistema tripartito come quello di fatto italiano, un maggioritario sbagliato può essere una deriva pazzesca. Dobbiamo stare molto attenti, attenzione, a come disegniamo le istituzioni prossime venture. Detto questo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ma io posso andare oltre 300 km all'ora, che in miglia sarebbero assai. Ah, è quell'auto da corsa italiana. Si chiama Francesco Bernoulli. È normale la ressa. È un bel vedere, non trovi? Con le ruote scoperte. Allora, Cars, molto bello, ovviamente dialoghi fantastici, grande cinema d'animazione, per introdurre magari una riflessione un po' più approfondita, se ci riusciamo, sul mercato dell'auto. Abbiamo visto i GR hanno anticipato dicendo è stato un anno difficile nel 2013. È vero, però attenzione, perché in dicembre il mercato è salito del 13.3%. Questo significa che per il 2014 le cose dovrebbero andare molto meglio. Anche per la Fiat? Anche per la Fiat. Ah. Anche per la Fiat. La Fiat, il dato Fiat è molto influenzato ovviamente dalla sua quota importantissima nel mercato italiano. Certo. L'Italia che è il mercato peggiore in Europa, perché l'anno scorso è crollata del 7.1%. Certo. Sono tre paesi che sono andati molto male. La Germania, la Francia e l'Italia. Rispettivamente la Germania meno 4,2, la Francia meno 5,7 e l'Italia meno 7,1. Ci sono paesi invece che sono andati fortissimo. I migliori sono stati gli inglesi con 10,8 in più e poi gli spagnoli che si sono ripresi. Quindi diciamo ci sono cose interessanti. Sì. Poi mi chiamo Jordan Belfort. L'anno in cui ho compiuto 26 anni ho guadagnato 49 milioni di dollari, il che mi ha fatto molto incazzare, perché con altri tre arrivava a 1 milione a settimana. Good. Allora, la volpe di Wall Street. Solo un flash per dire che è arrivato a Dubai, ma l'hanno tagliato di 45 minuti, questo grandissimo film che arriva adesso in Italia a fine mese. Troppo sesso, troppa droga, troppi soldi, troppa vanità. Quindi, la registriamo come una curiosità, un dato. Butta fuoco, non fare così, non far finta di niente. Lui sta benedetto. Di quel che non si può dire. Ve lo descrivo, ha alzato le mani. Di quel che non si può dire bisogna tacere, che non è Totorina ma Wittgenstein. Vai figlio mio, vedi questo lusso, questo yacht, non voglio che pensi che questa è la felicità, perché guarda lì, quella è la felicità, papà, nostra caca. Wow. Classe dirigente, no? Lo yacht, la cosa è Davos, il 77% dei partecipanti al forum economico è alla prima volta. Mix 24. Il numero verde, il numero SMS 349-238-6666. Professor Simonelli, professore. Scusate, io prima volevo farvi sentire un'intervista che ho fatto ieri di nascosto da Giovanni. Ah, questa è Sara, no, mamma mia. Un'incursione in studio. Adesso si sta allargando. Io sgomito, non è che mi allargo, io sgomito proprio tra tre uomini, bisogna tirare fuori le unghie. Arrampicatrice proprio, sì. Una arrampicatrice di intervista. Sara Ristori, regista di Ginnaste, uno dei miei reality preferiti. Sara Ristori è la regista di Ginnaste. Mi spieghi le difficoltà di girare questo, io lo chiamo docu-reality. All'inizio il primo anno è stato molto difficoltoso, sia perché loro erano chiaramente non abituati alla nostra presenza. Abbiamo dovuto fare un po' un rodaggio reciproco e poi piano piano abbiamo capito noi. Un po' loro ci sono venuti molto incontro. Devo dire che abbiamo trovato un ambiente estremamente disponibile e versatile nei nostri confronti. Senti, ma dal punto di vista produttivo invece, quante ore di girato per far venire fuori un allenamento? Guarda, come si deve, con tanto magari di pianto finale? Allora, la seconda e la terza ore non ne ho proprio la più pallida idea, abbiamo intasato tera, chili di tera. La prima stagione che abbiamo girato praticamente con una camera sola, e abbiamo girato più di 900 ore, la prima stagione erano, tra virgolette, solo 30 puntate del Daily. Senti, tra l'altro, Ginnaste è il primo docu reality in cui si vedono le persone che sanno fare qualcosa. Com'è nata quest'idea? Ilaria Bernardini aveva scritto un libro sull'ambiente della ginnastica, un libro abbastanza discusso perché dava una versione romanzata e piuttosto buia. Tipo Comaneci? Sì, tirava fuori le problematiche, tirava fuori un po' il più crudo di quello sport. A prescindere da questo, comunque il romanzo era oggettivamente un romanzo valido, e quindi una società di produzione che si chiama Fremantle ha ritenuto opportuno indagare l'ambiente e, d'accordo con MTV, che era la rete interessata a un progetto simile, hanno deciso di provare a iniziare a fare questo programma. All'inizio doveva essere un programma di 6 puntate, poi dopo aver visto le prime interviste alle ragazze della prima stagione, erano oggettivamente dei personaggi che, anche avendo fatto un casting millenario, non saremmo riusciti a trovare. La sfida è riuscire a fare una televisione commerciale ma anche di valori? Questa sfida, diciamo che è una sfida che tutti cerchiamo di prendere, però poi vincerla non è sempre facile, perché si parte sempre col piede giusto e poi ci scontra con una serie di problematiche notevoli. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare delle ragazze che poi sono le protagoniste dello spettacolo, che sono, oltre a persone valide, atlete nazionali, sono proprio delle persone che hanno dei valori forti. Quella è stata la nostra fortuna, perché non bastava pensare di girare un documentario su degli sportivi per farne quello che poi è venuto fuori, diciamo. Senti, è in arrivo la quarta stagione. Quali saranno le novità? Alcune vecchie leve resteranno, altre andranno via. Quello che resterà di sicuro è la presenza della parte maschile, lo zoccolo duro. La Ferrari è fuori, ovviamente. La Ferrari è sempre stata un po' tangente, un po' la special guest. Sì, esatto. Lei comunque continua a fare ginnastica, quindi girando le gare, situazioni di squadra nazionale, lei ovviamente, credo, rimarrà nella nazionale, e quindi di conseguenza, avesse voglia di ripartecipare al progetto, chiaramente si ritirerebbe dentro anche lei. Grazie mille, buon lavoro. Ma sicuro, ciao. Vabbè, Sara ha fatto la sua intervista. Professore, prima di cominciare abbiamo un quiz per lei. Pietrangelo Buttafuoco ha da farle un quiz. Ho aperto un libro a caso. Buongiorno, professore. Buongiorno. Leggo il primo rigo e il quiz lo sottopongo a lei, ma anche agli ascoltatori. Il primo che indovina, chiama e ce lo comunica il titolo, se lo vedrà recapitato in casa. Inizio. Nunc e in ora mortis nostre. Amen. Professore. Ma potrebbero essere molti i libri che cominciano così. Uno solo, professore. Uno solo? Confesso la mia ignoranza. È aperto. Però ripetilo, che è aperto. Guarda che il professore deve dire che non lo sa, per aprire agli ascoltatori. Gli ascoltatori. Ripeto. Ci siamo messi d'accordo prima. Sì, esatto. Nunc, e in ora mortis nostre. Amen. Dopodiché chiuso il breviario, eccetera, eccetera. Ma spero che sia una roba divertente. Vabbè, sarà una cosa molto importante nella letteratura italiana. Non solo, è molto importante anche per la storia della cinematografia. È molto importante da tanti punti di vista, anche per la politologia. Professore, professore, dov'era il canone ieri sera? Dunque, ieri sera ho avuto un colpo. Perché ho guardato Rai 1 prima di tutto, sì. E mi sono accorto che noi viviamo in un paese che si chiama Albania, che non è l'Albania, è la patria di Albano Carrisi. Mm. Perché Albano Carrisi ha avuto nelle ultime settimane tre appuntamenti importantissimi. È cominciata con Mission, vi ricordate? Sì. Poi c'è stata la prima serata del venerdì, quel programma sulle ricongiungimenti familiari. E ieri sera addirittura il suo ricongiungimento con Romina da Mosca tutto il concerto. Ora, con tutta la simpatia e rispetto per Albano, la mia domanda è: non stiamo mica un pochettino esagerando per caso? Albano mania, anche questo lo lasciamo agli altri, questo interrogativo, come quello di Buttafuoco. Allora, il canone l'ho cercato altrove. E dove l'ha trovato? Intanto di nuovo Rai 5, un ritratto di Zanzotto, del poeta Zanzotto, in primissima serata alle 21. Ma soprattutto alle 23 su Rai Premium un autoritratto di Marco Risi, una bellissima lezione di storia del cinema italiano contemporaneo. Vedete che Risi ha rivelato, bellissima, con dei filmati, degli spezzoni di film, ha rivelato di essersi accostato al cinema vedendo un film di Ermanno Olmi. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe detto? Il Posto. Ah. Il figlio di Dino Risi si accosta al cinema attraverso Il Posto di Ermanno Olmi. Senta, professore, intanto, a Buttafuoco hanno risposto... E dobbiamo recapitarne uno. Chi è Buttafuoco? Chi è che t'ha scritto? È una nostra ascoltatrice, Valentina Cofini, ha indovinato. È il Gatto Parma. È sicuramente la fidanzata di Buttafuoco. Cioè, gliel'hai suggerito. È una pastetta clamorosa. Ascoltatori, è scandaloso quello che è successo. Guarda, proseguo con Wittgenstein. Sì. Ma con l'altra proposizione. Esatto. Sulla TV di ieri sera, posso aggiungere una cosa? Certo. Che si è parlato prima di sport, di una nobile sport, la ginnastica, le ginnastiche. Sì. Io non sono così entusiasta come... Ma Sara Tardelli è giovane, c'ha dei gusti diversi. Allora, ieri sera, se qualcuno era sintonizzato su Sky Sport 24 tra le 7, le 8, le 19 e le 20, avrebbe assistito ad una cosa eccezionale. Un nulla sublime. Il nulla proprio sublime. Cioè? Una telecronaca dell'arrivo di Seedorf, del viaggio di Seedorf da Linate a San Siro. Fantastico. Professore, lei è milanista? Sì, una macchina seguiva un'altra macchina, la macchina di Seedorf, e l'accostava, affiancava ai semafori e si vedeva Seedorf sorridente. E gli consegnava l'Oscar. Però per noi rossoneri, per citare un film, Il Cammino della Speranza. Posso citare un film? Ah sì. Ho visto un film ieri, anzi ho rivisto un film Blowout di Brian De Palma con John Travolta e Nancy Allen, stupendo. Bene, professore, la ringrazio. Dopo il giornale radio ricordiamo un artista formidabile, una storia appassionante, una vita davvero piena di emozioni, quella di Edith Piaf. Subito dopo il giornale radio, sempre a cura di Marina Milone.